Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, 8 e 17 minuti, caro Oscar. Eccoci qua in questo 19 aprile con una bella partita stasera che terrà per col fiato sospeso milioni di italiani, ma il risultato è noto, partita. È noto. Noi non ve lo diciamo anche se lo sappiamo. Borussia Monaco. Ma come puoi immaginare che sia un'altra? Beh, ovviamente quella che stai dicendo tu. No, no, lo sai che è un'altra. Lo sai che è un'altra. Vabbè, e quindi, cari tifosi, non vi resta che appellarvi al santo del giorno. Sì, oggi è Sant'Emma di Sassonia. Non è un santo italiano, quindi, però detto tutto questo, c'è San Leone IX, per esempio. San Leone IX che era un papa tedesco, sì. E che però si diede molto da fare, perché siccome è stato papa dal 1049 al 1054, cioè anni di scontro terrificante tra la Chiesa e l'impero, lui, malgrado fosse espressione diretta dell'imperatore, girò all'epoca tutta l'Europa per ripristinare il potere della Chiesa, sia contro l'eresia sia contro, insomma, gli eccessi del potere imperiale. Quindi, siccome la storia della partita di questa sera è riequilibrare il fatto che nelle coppe va sempre storta per una squadra, forse questo papa può essere uno un buon santo da pregare. San Leone IX, addirittura patrono di Benevento, perché la difesa in armi, pensate un po', contro i normanni, e infatti è anche l'anniversario della ascesa al soglio, vedrete perché il soglio oggi torna alle notizie italiane, di Papa Benedetto XVI, un altro papa tedesco che poi fece il gran rifiuto, come sapete, di tirarsi indietro, però nel 2005 oggi diventava papa cardinale Ratzinger, prendendo il nome appunto di Benedetto XVI. Auguri di buon compleanno a Lilli Gruber, tra gli altri, e a Claudio Cecchetto, un grandissimo della radio e della musica, secondo me, e a Marina Sharapova, che secondo me è una grandissima del tennis, e che si è beccata gli anni delle due sorelle Williams, quindi è stato complicato. Sì, anche Maria, squalifica. Secondo me, nel 2016 per doping, che finisce proprio adesso, ripreso. Detto questo, però, la grande festa del giorno, perdonatemi, è Pesach, cioè oggi la Pasqua ebraica. Ricordiamo che noi tutti abbiamo un pezzo di identità ebraico prima che cristiana, e tendiamo a dimenticarlo. La Pasqua ebraica, a chiunque sia capitato di avere amici ebrei, per quanto sia una delle tre feste religiose fondamentali, è un grandissimo rituale. C'è l'ordine persino di come si mettono i piatti in tavola al seder, per capirci, e i bambini sono al centro di tutto, perché ai bambini bisogna spiegare come e perché il popolo ebraico uscì, no, da Egitto, perché questa è la Pasqua, è il senso della redenzione loro e la ripresa della libertà, ed è un rito bellissimo con le preghiere bellissime, ma soprattutto i bambini che fanno le domande fondamentali per capire, e tutti i membri della comunità e delle famiglie riunite che li mettono al centro di questa serata di racconti. Io, quando mi è capitato, mi è rimasto impresso come una delle cose che noi non facciamo più, di cui abbiamo perso veramente la memoria, e sono invece l'idea fondante di che cos'è una comunità tutta sui piccoli a tavola che chiedono: ma chi era Mosè? E poi c'è un rituale che su tutti i numeri c'è una risposta da dare, una specie di interrogazione con le tabelline, che cos'è 1, 2, 3, 4. Io mi è rimasta sempre impressa, perché mi ha fatto capire che è vero che tutti veniamo di là, solo che ce lo siamo dimenticati in questo mondo laico. Però, come hai visto, notizia del giorno invece, la religione. Ma la religione c'entra, torna alla ribalta. Sì, io ho notato queste. Ieri mi ha colpito Di Maio, no? Che tornava sulla questione celebrare la domenica, una certa in famiglia, voluta insistenza. Sì, no? Sì, sì. Ecco. Sembrava una cosa abbastanza cattolica, insomma, legata anche alla religione. Cioè. E infatti oggi. oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista al direttore di Avvenire. Una grande intervista, a pagina intera. E dice che i cattolici e il Movimento 5 Stelle, almeno per tre quarti dei grandi temi, secondo niente. Il direttore Hai di Avvenire, hanno un punto di contatto. Niente. Tre quarti, una benedizione del quotidiano della CEI ai 5 Stelle. Sì, anche perché oggi uno va su Avvenire e guarda trova caso una rarità, un'intervista a Beppe Grillo. E guarda caso, uno scambio di riconoscimenti ufficiale sul primo quotidiano italiano, sul quotidiano della CEI. Tre quarti, cari amici in ascolto. Ma cosa ti Beh, ci sono due cose che mi colpiscono. Primo, siccome sono vecchio oramai, faccio l'osservatore della politica italiana da tanto tempo. Ricordiamolo, è una costante storica, amici 5 Stelle, ricordatevelo anche voi. Tutte le volte che tira aria di vittoria elettorale, di ascesa al potere di un partito, di un leader, di un blocco nuovo nella storia italiana, la CEI esercita le sue lusinghe. Capitò con Berlusconi quando decise tra la fine del 93 e l'inizio del 94 la famosa discesa in campo. Capitò con la Lega, di cui all'inizio diffidava molto la gerarchia cattolica. E oggi capita ai 5 Stelle. Ma è una costante, cari amici 5 Stelle. Ricordatevelo, sfogliate, andate nelle meroteche e sui computer. Ma insomma, poco è digitalizzato dei vecchi anni della storia politica italiana. Vedrete che è una costante di Santa Romana Chiesa cattolica italiana. Quindi, da una parte, resistere. Questo, secondo me, dovrebbe essere il motto. Cioè, non è una cosa priva di precedenti e totalmente sgombra da il fatto che poi la CEI, come sappiamo, tenta di influire e di esercitare un'incerta influenza su molti temi della vita politica e parlamentare italiana. Dall'altra, poi, c'è una cosa che naturalmente è una battutaccia, ma c'è un fondamento in realtà. È chiaro che due monarchie teocratiche sono fatte per intendersi. Eccolo lì. Cioè, le monarchie teocratiche sono la Chiesa e il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle accetti l'idea che c'è uno che decide tutto, quindi è ovvio che è così. Le scomuniche ci sono lì e ci sono qua, sono diverse, ma il fondamento, come vedi, è lo stesso. E lo dico mica criticando, sai, come vedi è una soluzione che nel mondo funziona, dalla Turchia a non solo in Turchia, funziona. Quindi... Vabbè, ma questo ha colpito Oscar, l'avvicinamento, diciamo così, per usare un eufemismo, lo sposalizio tra i cattolici. Mamma mia, lo sposalizio, usi termini di un certo peso. Vabbè, insomma, adesso tu hai, concludo quello che tu hai detto. Però 75% che un grande segnale politico incrociato vuol dire che la CEI non tifa. Guardate, la CEI non tifa, io vorrei essere chiaro su questo. La CEI è realista, dice questi vincono, vediamo un po' che si può fare. Però anche lo, chi prende lo dica, atto del possibile nuovo corso. Prende atto del possibile nuovo corso, ma come sai, la Chiesa, essendo noi stati influenzati da giovani, l'abbiamo visto, la Chiesa è prudente nella sua storia. Quindi, per dirlo così, vuol dire che la considero non una probabilità, la considero una probabilità elevata. Comunque, il direttore di Avvenire dice: bene, Di Maio contro le aperture domenicali. Siamo vicini a loro sui tre quarti dei grandi temi. Accidenti, tre quarti dei grandi temi vuol dire tanto. Tantissimo. Dal punto di vista economico, invece, c'è un'altra questione. Ogni giorno avremo da qui ai prossimi mesi la disfida dell'IVA. Che non è Zanicchi, è proprio l'IVA. L'IVA, nel senso l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto. Aumenterà o non aumenterà quest'IVA? E pare, raccontano questi retroscena, che Padoan, virgolettato, si sia rotto. Cioè, per dirla in termini, si sia rotto, che cosa potete immaginarlo voi? Nel senso, completate voi che cosa si possa essere rotto. Cioè, il tecnico Padoan, scrive almeno oggi Francesco Verderami sul Corriere della Sera, avvicinandosi alla fine della legislatura, sente il richiamo del fatto di essere un tecnico, di essere magari stato prestato alla politica. Sì, quindi... questa è la versione, diciamo, si è rotto le scatole di essere preso schiaffi dai renziani, avendo lui comprato, con il suo prestigio, l'autorevolezza e la credibilità internazionale in materia economica del governo, e vedersi adesso indicato come un nemico, un tecnico, uno che non capisce, che tira fuori tesi che servono a perdere voti, diciamo che è un signore vedetevela voi, cari amici, visto che io vi ho portato più di 2 punti di PIL di maggior deficit nei 3 anni di Renzi. Questo è ciò che l'autorevolezza di Padoan è valsa al premier italiano, che evidentemente se lo scorda. Ci sarebbe insomma questo scambio, no, profilato da questa famosa intervista di Padoan tre giorni fa, cioè aumentiamo l'IVA, aumenterà l'IVA, però così abbassiamo il cuneo fiscale. Quindi vabbè, è vero, i prezzi aumenteranno, i consumi si deprimeranno un po' perché la gente, però avremo più soldi, avrete più soldi, questo sarebbe lo scambio in busta paga. Ora Confindustria si è dichiarata fiscale. Abbastanza convinta del sì, lo sappiamo, perché Confindustria tutte le volte che in cambio di uno sgravio del fisco sulle imprese, sul lavoro, sul cuneo fiscale, si è ipotizzato di aumentare l'IVA, ha sempre detto sì come contro Confcommercio. A me quello che colpisce è che entrambi, mentre Padoan è più responsabile nel dire almeno preservo i saldi, cioè levo con una mano e metto dall'altra, Renzi dice no, noi dobbiamo diminuire il cuneo in deficit, quindi nessuno dei due vuole più toccare la spesa pubblica, cioè oramai siamo su posizione alla Mélenchon in Italia dal punto di vista del PD, è come se entrambi dicessero ma tanto le regole europee saltano, vincerà le PM, le Sean, salta tutto. Ecco, l'irresponsabilità generale di questo tipo di dibattito, prima ancora del fatto che, se mi metto nella testa di chi ascolta, sai, sapere che la mia alternativa non è mai quella di uno sgravio netto delle tasse, ma semplicemente mi levano da una parte quello che mi rimettono dall'altra, insomma, dopo tanti anni avremmo dovuto capire che non funziona, secondo me. Però questa è la mia opinione personale. Comunque diamo il numero di telefono, che è il solito 800 24 0024, se volete parlarci di questi temi, il Movimento 5 Stelle, i cattolici, l'IVA, l'economia, insomma quello che bolle in pentola, Theresa May che per una risicata maggioranza di 17 seggi vuole le elezioni per rafforzarsi, pensa in Italia quando i governi ballano. Però su 5 punti, oggi, 5 poltrone. Oggi sul voto dell'anticipazione voteranno a favore sia i liberal democratici che i laboristi, perché ricordiamolo, ci vogliono i 2/3 del voto alla Camera, sì, per ottenerlo. Ma otterrà, ma dire, in Italia ballano le maggioranze con 5 poltrone. Se uno ha la maggioranza di 5 poltrone, esatto, se le tiene strette e non... 17 è una maggioranza 17, storica, può 17, durare 20 anni, figurati. Esatto, in Italia. Però c'è anche un tema che è tornato prepotentemente alla ribalta grazie a un'inchiesta, un dossier di Emanuele Lauria che su Repubblica ieri, ma anche oggi, vuole tornare su una vecchia questione, la cara vecchia questione dei vitalizi. Emanuele Lauria però che sembra non appassionare più, posso dire una cosa, il Corriere della Sera è vero, non oggi appassiona più tanto con Galli della Loggia, che dice ma insomma sti privilegi dei politici dove stanno. Mi ha molto colpito Galli della Loggia di oggi, forse è meglio appunto leggere gli articoli di Lauria per capirlo. No, anche perché al netto della demagogia, al netto delle soliti attacchi, cioè Emanuele Lauria fa una inchiesta precisa, no? A dire, ma andiamo un po' a vedere nelle, esatto, regioni dove avevano detto sì, ci tagliamo tutto i vitalizi, come no. Ebbene, metà delle regioni di fatto non hanno applicato le riduzioni sui trattamenti degli ex consiglieri. Questo è il macro dato. Emanuele, buongiorno. Emanuele Lauria di Repubblica. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, intanto vediamo un po', facciamo quali sono le regioni più virtuose e quelle meno virtuose, così facciamo una specie di classifica in base alla tua inchiesta. Sì, guarda, ad applicare questi tagli sono stati Lombardia, Friuli, Marche, Lazio, Piemonte, Toscana, Trentino, Val d'Aosta, Veneto e Puglia. Quindi sono queste le regioni che hanno applicato quella che era una direttiva della conferenza delle assemblee regionali del 2014, no, quelle che materialmente hanno fatto questi tagli, seppur temporanei, però insomma tagli ai vitalizi che sono tanti, insomma, che sono attualmente circa 3.600, diciamo, quelli erogati dalle regioni italiane e che insomma pesano per 150 milioni di euro. Poi sappiamo bene che qui non è tanto una questione finanziaria complessiva, ma c'è anche, no, ovviamente anche un profilo etico, insomma, che 150 milioni sono un granellino, sì, di, sì, sabbia, ricordiamo. Sappiamo benissimo, ma sai anche la questione dei vitalizi, un tema vecchio, un tema nuovo. Io mi permetto solo di dire, insomma, con questa inchiesta abbiamo semplicemente fatto una sorta di, insomma, di fact checking, cioè nel senso di insomma cercare di capire rispetto a quelli che erano stati i propositi della stessa politica, quelle che erano state poi invece l'attuazione di questi ma diciamo, Emanuele, anche dando merito a quelle regioni che lo hanno applicato, cioè, perché non è che è solo sì, criticare, sì, per questo sì, abbiamo fatto bene a dire, sì, quelle che l'hanno applicato, no, intanto. Sì, infatti siamo partiti esattamente da quelle, non abbiamo neanche dimenticato che in questo campo comunque dei passi in avanti sono stati fatti, perché i vitalizi oggi sono stati abrogati in quasi tutte le regioni. Il punto è che questa misura è stata presa, guarda, l'abrogazione soltanto per il presente e per il futuro, per il passato. È il tema probabilmente è questo, che quasi in tutte le regioni l'accumulabilità piena del trattamento ex consigliere regionale o assessore regionale e ex parlamentare italiano europeo resta cumulo che in altri ordinamenti europei non c'è, come per esempio. Esatto, ed è un altro aspetto piuttosto rilevante, hai fatto bene a sottolinearlo. Vedi, la questione che come dire, in qualche modo colpisce è che queste misure non vengono applicate proprio sui vitalizi del passato, ovviamente per il futuro non ci sono, perché e che sono quelli poi che obiettivamente sono stati erogati con maglie larghe, con grande generosità, anche a consiglieri che hanno fatto a volte poche legislature. Insomma, in questi elenchi di gente, di consiglieri, come dire, salvati, ci sono anche casi di condannati per peculato, ci sono casi appunto di consiglieri che hanno fatto pochi mesi, ci sono i famosi eredi in Sicilia di deputati che hanno svolto il loro mandato addirittura nel dopoguerra, cioè insomma obiettivamente oggi ne intervisti uno che un po' succede sempre così, cioè il capro espiatorio, oggi intervisti tale ex onorevole, perché in Sicilia, nella tua Sicilia vanno chiamati così, onorevoli, Caltagirone, che ha fatto 5 sedute all'Arsa, subentrato, e dice ma che scandalo c'è, e poi è bella questa cosa, perché dovrei immolarmi io, perché dovrei passare per il minchione, diciamo, lo fanno tutti oppure esatto ma guarda in Sicilia, devo dire non solo in Sicilia, obiettivamente poi io non ci sto a colpovizzare soltanto la Sicilia che ha tanti mali, però ci sono obiettivamente dei casi simili a quelli, Castiglione non è l'unico, ci sono anche dei casi simili, io me ne ricordo uno ad esempio che veramente fa specie, cioè di un deputato che lo chiamiamo così ma non ha mai messo piede in assemblea regionale perché ottenne il titolo di deputato soltanto a fine legislatura in seguito a un ricorso, quindi non ha fatto neanche un minuto di presenza in assemblea regionale e si è preso il vitalizio, e quando è morto il vitalizio è passato alla moglie. Straordinario. Beh, sì, perché c'è questa cosa della reversibilità, ovviamente. Tieni conto che anche secondo me andrebbe affrontato. Ricordiamo che anche sui criteri di reversibilità per i consiglieri regionali e quindi per i parenti, per i sopravvissuti che ne hanno diritto e per quelli dei parlamentari non vigono i tetti di diminuzione dell'assegno che vigono per noi cittadini normali che lo vedono decrescere in presenza di X multipli del reddito minimo sociale. Un'altra cosa su cui loro dicono che va messo tutto a posto, ma questo per esempio no. Ma tra l'altro Emanuele, le regioni virtuose le hai dette, le regioni invece viziose, chiamiamole così, insomma, le regioni che sento le querele. Che fammi querela la regione X. Figurati, hai visto che d'ora in poi anche il Comune di Napoli critica chi critica. Cioè chi è che non ha applicato questa direttiva della conferenza delle regioni, quindi di loro stessi, del loro organismo rappresentativo? Qui c'è un'altra cosa che lascia un po' così perplessi, perché non applicarlo sono soprattutto le regioni del sud, dove le condizioni economiche sono obiettivamente peggiori, sono la Sicilia, la Calabria, la Campania, la Sardegna, l'Abruzzo, insomma c'è anche l'Emilia Romagna, c'è anche la Liguria, però insomma sono soprattutto le regioni del sud, insomma, quindi, e questo è un altro tema obiettivamente importante. Sì, insomma, ancora c'è un po' di strada da fare, quindi ora al di là dei progressi, insomma, dei passi avanti che sono stati compiuti, però obiettivamente ci sono anche perché sai, quando arrivano segnali come questi al sud, tu prima parlavi giustamente di vitalizi di reversibilità, oggi un'altra erede che abbiamo intervistato è la moglie di un ex presidente della regione siciliana, la vedova, che oggi percepisce un vitalizio da 9.200 euro al mese. Sì. E tieni conto che è una cifra obiettivamente elevata in un panorama economico come quello siciliano, e che lei, la signora, può sommare a uno stipendio da primario di ospedale, cioè nel senso che obiettivamente poi è un po' troppo. È una questione di opportunità, insomma, si pone, no? Ed equità sociale obiettivamente si pone con tutto il fatto che, per carità, poi i titolari, cioè insomma chi ha fatto il deputato in Sicilia o come altrove, probabilmente ha anche scritto pagine importanti a volte, insomma, a volte no, però insomma voglio dire. Vabbè, ma questo città. No, ma il caso citato ieri da Lauria, caro Oscar, di questo appunto ex deputato bisignano che non è mai stato all'ARS, ma 15 anni dopo, 15 anni dopo ha fatto un ricorso e l'ha vinto, 15 anni dopo finita la legislatura, quindi retroattivamente è stato è dato a lui la vittoria e quindi l'elezione, anche se erano passati 15 anni, e ha goduto del vitalizio che ora ha passato alla moglie come reversibilità, 1800 euro. Vabbè, insomma, poi ci sono casi appunto limite. Il problema è che cosa si può fare per concludere, per diciamo porre queste regioni che non hanno applicato questa cosa di fronte alla necessità di doverlo fare. Nulla, perché sentiamo che dice Laura. Ma lì c'è una pioggia, di ricorsi, insomma, su, diciamo, contro i provvedimenti laddove sono stati presi, perché c'è la famosa questione, sapete benissimo, dei diritti acquisiti, sì, insomma, dei diritti acquisiti che viene opposta, insomma, viene contestata. Ma a mio parere comunque la strada giusta è quella di una riduzione, cioè se si potesse sul piano astratto io sarei obiettivamente per l'abrogazione di questo istituto. Poi sai, ognuno pensa, ovviamente è una posizione assolutamente personale, come se ne provano vuole. Tutte, anche la Camera, anche il Senato, contributi di solidarietà. La soluzione si chiama ricalcolo contributivo per tutti, gestioni pubbliche e private, come insegna l'operazione Porte Aperte all'INPS, svolta in questi anni dal presidente Tito Boeri. Sappiamo chi ha i trattamenti moltiplicate rispetto ai versamenti. Non è vero che gli interventi hanno risolto il problema. Io devo ringraziare i colleghi come Lauria, come Giordano col suo ultimo libro, che continuano a ricordarlo, perché io sono al centro di una campagna di insulti vergognosa che alcuni parlamentari mi riservano perché mi occupo di questi temi, ricordando che non è così. Come per esempio Lauria si è occupato dei trattamenti vitalizi, come se andiamo a vedere sulle retribuzioni il professor Roberto Perotti ci ricorda sempre che anche la diminuzione della retribuzione dei consiglieri regionali, le regioni dopo l'impegno del 2013 intervennero, però sono intervenute sulla quota tassabile, alzando quella invece a netto della tassazione, quindi tra retribuzione e indennità, e giocando su questo in 9 regioni si guadagna più di prima, per essere chiari, esattamente come Lauria ci ricorda che in 10 regioni gli impegni sui vitalizi non sono stati mantenuti. Il nostro compito è fare i cani da guardia, e i politici ritengono invece, secondo me, che l'hanno scampata oramai e quindi non ci saranno più interventi su questo. Io credo che l'arietta che tira sia un po' questa. Per questo c'è appunto meno interesse, si dice ma sì, ha rotto questi discorsi. Ma sì, è tutto risolto, ma di che parlate, non mentite, alcuni di loro sono molto impegnati in campagna così, io credo che ci dobbiamo beccare gli insulti, perché poi ti dicono siete l'antipolitica, no, veramente l'antipolitica siete voi, rispetto, no, perché un trattamento come quello ci ha appena ricordato Lauria è la cumulabilità che altrove non c'è tra un assegno di quella dimensione rispetto a un trattamento meritatissimo perché sei un primario, ecco, secondo me è un problema. Perché in altri paesi non funziona ed è vietato e da noi invece no? È per questo. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, poi come sempre ci sono tanti ascoltatori con noi, e non abbandonateci che tra poco veniamo da tutti voi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, le 8:42 minuti, tanti ascoltatori, vediamo, ci staranno tutti, se siete sintetici sicuramente. Francesco da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, eccoci qua. Allora, io volevo raccontare prima la mia esperienza. Quando ero piccolo, mio padre era un artigiano, il primo maggio non lavorava, io da piccolo pensavo che c'erano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Lavoratori di serie B erano quelli che lavoravano nei ristoranti, nei bar, cinema, teatri, che dovevano lavorare il primo maggio per far divertire i lavoratori che non lavoravano. Allora io mi chiedo, vorrei chiedere a Di Maio, ma questa gente non si rovinano le famiglie? Ma no, ma è chiaro, ma Francesco, la sua domanda retorica pone la questione, ma se dobbiamo fare l'elenco di tutti quelli che lavorano la domenica, ma non finiamo più. Ci sono alcuni milioni su 22 milioni e rotti, 7 di occupati. Infermieri, vigili del fuoco. E poi non solo servizi pubblici non interrompibili, ma negozi, servizi privati che servono per libera scelta. I bar, i edicolanti, i ristoranti. insomma, non lo so, vigili urbani. Cosa continuiamo, Oscar? Quanti saranno? 3 sono milioni di persone? Sono 4,7 se metti nel totale. Non significa che tutti i festivi ci sono 4,7 milioni, ma in totale a turnare sui festivi sono 4,7 4 milioni e mezzo di sfascia famiglia. Capito? Ma il problema, però, come vedete, ha funzionato. Come vedete, insomma, M5 Stelle ha lanciato un grido. E la CEI ha risposto. Dai, c'è Maurizio da Latina. Buongiorno, Maurizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco. Allora, sarò sintetico. Si parla di aumento IVA in cambio della diminuzione del cuneo fiscale. Ma come mai non si parla più di spending review? È finito il dossier di Cottarelli che finito. È stato segretato. Evaporato. Ma segretato, segretato no, cioè, forse non è stato applicato, segretato no, poi si sono saputi insomma che cosa Cottarelli, una serie che va avanti da anni, X-Files proponeva, ma poi c'è stato Perotti, vice capo della Spending Review, adesso salutiamo Göran Guttgel che è responsabile della Spending Review, che magari ci dirà non è vero. Basta fatto... vedere la pagina 140 del DEF per capire che la Spending Review non c'è di fatto più, ma lo hanno ammesso del resto. Renzi è stato chiaro quando è arrivato, lui mal sopportava l'idea di dover ereditare un commissario nominato dal suo predecessore. Cottarelli, io sposto le voci di qua Italia. Là, ma non diminuisco il saldo di spesa, lo aumento. E Cottarelli, tra l'altro, che è al Fondo Monetario, mi ha annunciato proprio ieri che torna in Italia. Finisce il mandato, torna in Italia, non si sa fare che cosa. Non la spende in review proprio. Non la spende in review perché quello l'ha già proposta. E non credo che accetterà il vero incarico di cui i partiti sono incessantemente alla ricerca, cioè consigli su come aumentare ulteriormente la spesa. Perché questo sai, a un certo punto. Comunque, grazie Maurizio. Andiamo a Cagliari da William. Buongiorno. Buongiorno Oscar, buongiorno Alessandro. No, svariati anni fa, dopo che erano stati fatti gli ultimi aumenti di IVA, circa un anno dopo, un economista di Cagliari aveva messo un editoriale nel giornale locale dove asseriva che gli aumenti di IVA, tutte e due le volte, avevano portato a una riduzione degli introiti dello Stato. Allora, io non so se quelli erano dati giusti o sbagliati, potrei andare a cercare questo articolo, però se quello è realmente il caso, che senso ha aumentare di nuovo l'IVA? Allora William, tu ricordi giustamente, ma non solo un economista che scriveva sui quotidiani, ma molti hanno rilevato che gli aumenti del generale delle aliquote, Monti per capirci, quando è venuto sul governo Monti, negli anni successivi, nell'anno successivo eccetera, hanno avuto un effetto che però scontava un calo degli acquisti e dei consumi. Naturalmente, se aumentano i prezzi, la risposta potrebbe essere, ma è aumento dell'IVA o aumento del fatto che per la crisi era esplosa la stabilità italiana nel 2011, era stato travolto il governo Berlusconi, sì, e così via, e la seconda recessione che comincia per l'Italia 2012-2013 è quella a diminuire la propensione minore ai consumi, mm-hmm, o è l'IVA, ma l'IVA di sicuro però aumenta, Oscar, l'effetto, no? Non voglio fare quindi Padoan perché non sono io Padoan, però Padoan in questo scambio proposto novità, dice no? Io è vero, aumentano i prezzi, ma se io ti do però un po' più stipendio, più potere d'acquisto con meno fisco quindi, per l'impresa. Aumenta il prezzo, ma avrai in busta paga qualcosa di più e quindi potrai permetterti di pagare di più. Resta questo fatto, sarebbe lo scambio proposto da Padoan. Che lo scambio, io taggo la spesa strutturalmente e in maniera permanente ed è così che vi do più potere d'acquisto, questo è uscito dagli orizzonti della politica italiana, questo non lo propone più neanche la destra, cioè non c'è più né il 5 Stelle tantomeno, è così, oppure è uscito dall'agenda dei giornali, non lo so, no, è dalla politica, stato questo è il grande urlo di tutti, ma vedi nella politica, mai vedi in Francia le elezioni, cioè tranne Fion che aveva iniziato dicendo persino troppo 500.000 dipendenti pubblici in meno, nessuno ci ha creduto, oltretutto detto da un gollista fa un po' ridere, ma in realtà se vai a vedere sono diverse declinazioni di come fare più stato ancora quando siamo oltre il 50% del prelevo, auguri. Guarda che bel giro d'Italia, andiamo a Padova da Nicola, buongiorno. Buongiorno a voi, io volevo intervenire nuovamente sul fatto delle aperture domenicali degli auto e dei centri commerciali. Io lavoro con un'azienda internazionale nel settore che ha anche poi delle aperture negli outlet internazionali e volevo farvi notare che negli altri paesi il problema non si pone assolutamente, ci sono le aperture festive che sono assolutamente vincolate e vietate in moltissimi paesi, tra cui la Germania, non mi sembra che la Germania in questo momento viva un momento di difficoltà economica, ma vi faccio anche una piccola precisazione. è una regione italiana che ha approvato una legge specifica a livello regionale che vietava l'apertura nelle festività italiane, quali il 1° novembre, il 2 giugno, sì, il 25 aprile. E le diciamo imprese immobiliari degli outlet o commerciali, le direzioni, hanno vincolato invece le aziende che operano all'interno di alcuni outlet a aprire durante le festività, violando quindi una legge che è stata fatta da un organismo. Questo viola che regione? Gli accordi, questo vincola anche, viola gli accordi commerciali e rapporti di lavoro che noi abbiamo con alcuni dipendenti di quella regione. Questo ci ha portato che poi, regione è, mi scusi? Questo è il Friuli Venezia Giulia, nel caso specifico. Grazie. E il comune in cui risiede poi, cioè in cui abbiamo l'attività nell'outlet, ha giustamente, a nostro parere, fatto poi una sanzione amministrativa che adesso ovviamente noi ci dobbiamo trovare a contestare per motivi ovvi, perché poi insomma, tutte le aziende Nicola ci pone, no, ci pone questa problematica dal punto di vista di chi invece Oscar dice la domenica, come in tanti paesi o nelle festività, ma si può non lavorare. In tanti paesi, paesi, figuratevi, non c'è neanche la libertà di votare. Significa... Ma no, vabbè, la Germania non è questa. No, la questione generale è capire, perché è diventato, come vedi, fronti contrapposti. In Italia così, cioè, si può fare. Il problema generale della libertà, cioè liberi di essere aperti. Per quello che mi riguarda, quando si entra in una fascia liberi di essere aperto, il dipendente precedente deve essere pure libero di dire, rispetto a un contratto precedente che non lo prevedeva, libero o meno dire sì o no senza essere licenziato. Ma la questione è incrociare stili e voglia di consumare o disponibilità di tempo di consumare di gente che chiede di poterlo fare. Ecco, questa cosa qui c'è poco da fare. Sembra non al centro, come sempre, di chi dice no, tanto la fetta è la stessa, anche se il resto è più aperto, e quindi mi proponi di dividerla semplicemente per una fetta più bassa. La torta è uguale. No, la torta cresce con più consumo. Però, per carità di Dio, io rispetto l'opinione di tutti e per così dire, bisogna vivere una Italia in cui ogni singola regione comune ha i suoi vincoli. Questo che vogliamo? Torniamo all'Italia del 600, un po' come dice De Magistris. Andiamo a Mantova, da Piero. Buongiorno Piero. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sì. Le volevo ricordare che gli agricoltori lavorano sabato e domenica, Pasqua e Natale di tutti gli anni, perché vengono dimenticati. Giusto, è da una vita che lavorano. Fa bene lei a raccordare, cioè e non credo che trascurino la famiglia, lavorano per la famiglia. Lei è agricoltore, Piero? Vale. È agricoltore lei, Piero? No, sono veterinario, quindi... Vabbè, però ha a che fare anche con gli agricoltori. Dire qualcosa anche per il cardinale. Il cardinale? Il cardinale Giannino? Sì. Il cardinale Giannino, sì. Il cardinale che ha detto non bisogna lavorare... E se l'asino cade nel pozzo il sabato? Santifichiamo il Signore e lo lasciamo morire. Giustamente, capisci? Il veterinario Piero dice: se cade l'asino nel pozzo, domanda giusta. Aspettiamo lunedì. Io ironizzo, ma in realtà no, c'è poco da ironizzare. Domanda giusta. Lei, Piero, interviene: quanti asini ha raccolto nel pozzo il sabato o la domenica? Ma era per dire che ci sono delle cose certo, che a volte devi fare. No, ma era una metafora per parlare di asini umani. Chiaro, era una metafora per parlare di asini umani. Piero, è stato chiarissimo. Che i veterinari usano anche queste immagini. È stato chiarissimo. Giampiero da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, io non ho potuto fare a meno di intervenire. Cioè, sento parlare di pensioni d'oro e reversibilità di pensioni d'oro, mi ribolle il sangue, perché la mia personalissima esperienza è quella di avere la reversibilità di una moglie che purtroppo è morta molto giovane per una brutta malattia, alla quale era stata riconosciuta una pensione minima di invalidità di 300 euro mensili con tredicesima, e io mi vedo riconoscere appena il 50% di questa pensione. Ora io poi quando sento parlare di quella signora in Sicilia che oltre allo stipendio da primario si prende pure in pieno la reversibilità del marito di 9.000 euro, si arrabbia giustamente. Ma infatti Giampiero pone una questione banale, cioè una sorta di equità, cioè nessuno vuol togliere la reversibilità anche al vitalizio se una persona, al di là del fatto che magari il vitalizio è ottenuto con 5 sedute parlamentari, ma lì la legge è sbagliata. Quindi nessuno vuol togliere quella reversibilità, ma è una questione di proporzione. Cioè, perché Giampiero deve vedersi decurtato del 50% perché da perché una è un cifra cittadino già... comune, no? No? Non è un privilegiato. Appunto. Caro Ernesto Galli della Loggia, ripensaci oggi. Ernesto, hai scritto un articolo... Se ancora siamo al punto di dover leggere, ma insomma in che cosa consistono i privilegi della politica, e allora abbiamo scritto inutilmente per 20 anni. Ecco. C'è Federico da Milano con cui concludiamo. Federico, buongiorno. Sì, la proposta di Giannino del ricalcolo contributivo uguale per tutti è già stata attuata per i dirigenti industria nel 2012, mi sembra. E però siccome è saltato fuori che molti di questi si sarebbero trovati un trattamento pensionistico più elevato di quello che avrebbero avuto col retributivo, allora il ricalcolo è stato fatto comunque fino al tetto massimo di quello che avrebbero percepito col retributivo. Esatto. Quindi si può fare, certo, si può fare, certo, si può fare con tutti, esattamente col criterio seguito. Beh, che è lo stesso infatti proposto all'INPS. Si può fare con tutti, poi i politici, almeno per quel che riguarda i parlamentari, dicono c'è l'auto di Kia, c'è l'auto cioè di Kia. La, che tutte le cuità cui... si porta via, perché l'auto di Kia significa io so io e tu non sei, come diceva il Marchese del Grillo, tu non sei, un po' come si è rotto Padoan, finite voi la frase. E finitela voi, perché tanto vi finiscono a voi. Dopo, prima vi sfiniscono in vita, poi col portafoglio vuoto vi finiscono. Allora dai, ci troviamo domani con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè, regia. Oggi dobbiamo ringraziare anche Miriam Lucchetti che ha lavorato alla trasmissione di oggi. Caro Oscar, ti benedico. Siamo d'accordo per gli 8 noni e voglio che tu governi. Allora, okay, facciamo così. Perfetto, ciao.